può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Buonasera, buon pomeriggio cari ascoltatori, eccoci qua, lunedì ripartiamo una nuova settimana insieme con Si Può Fare, staremo insieme fino alle 20.30, aspettiamo i vostri interventi all'800 24 00 24, come ogni sera naturalmente. Se volete interagire invece in tempo reale con noi ci trovate su Twitter, l'account del programma è @ Si Può Fare con il 24 di Radio 24, naturalmente il mio è @ Ale Maurizi. Oh, animalisti scatenati in difesa di Danica, l'orsa in fuga con i suoi cuccioli sulle montagne di Madonna di Campiglio del Trentino dal giorno di Ferragosto, quando ha aggredito un cacciatore di funghi e si è scatenata la caccia all'orsa perché c'è un ordine di cattura. Animalisti ma anche politici a caccia di voti scatenati in difesa di Danica, da tutte le parti, su Twitter, sui social network, come hanno potuto, dalle vacanze, Lara Comi, Maurizio Gasparri, Franco Frattini, Laura Puppato, solo per leggerne alcuni, Vittorio Feltri anche, Licia Colò, DJ Ringo, sono tantissimi che si schierano facilmente forse in difesa di Danica, ma c'è chi non ha paura in tutta questa ondata animalista di andare controcorrente. Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te, quando vedo martedì mattina c'è il diluvio universale, cosa assolutamente normale in questo mese d'agosto, perché viene il diluvio universale dappertutto, e sento i cani che si attaccano, fanno un casino bestiale in giardino, vado a vedere e stanno litigando con un serpente che per scappare i cani si infila nella cucina di casa mia. C'erano le porte aperte, però c'è la griglia per non far entrare i cani, e lui ci è passato, era già bello acciaccato, però cazzo, era lungo 2,20 metri, poi l'ho misurato. Sono tutte delle verginelle, povero serpentello, povero un cazzo, 2,20 metri di serpente. Insomma, è un po' come la storia del piccione, no? Del farmacista milanese di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. Ora, devo dire, Calderoli avrà tutti i difetti che volete, però trovarsi, vabbè, era una specie protetta, un serpente non velenoso. Però cosa fai? Ti trovi lì davanti un serpente, vai a consultare l'enciclopedia per capire se è un serpente velenoso oppure no. L'ha preso e l'ha ammazzato. Anche lì animalisti scatenati contro Calderoli, il quale se ne frega assolutamente, completamente, di cosa possono pensare gli animalisti di lui. Mentre, ripetiamo, è in corso una campagna sull'orso Danica in Trentino, che vede schierati moltissimi politici, sicuramente a caccia anche di un po' di voti, di amici, di animali. Ancora Calderoli. Dove passi tu? Dove passi tu? Dove passi tu? E qualche tempo fa mi arrivò un mio collega senatore napoletano dicendomi: Roberto, stai attento perché tu sei in pericolo. E ho detto: cavoli, cosa è successo? Ti hanno fatto la macumba, te l'ha fatto il papà della Chiende. Cioè, per me la macumba era un ballo latinoamericano, cioè non sapevo cosa fosse. Calderoli, che come lo saprete, ma la versione, diciamo, la sua versione raccontata un paio di giorni fa nel weekend, l'aveva già detto, ha attribuito alla presenza di questo serpente e di altre sfighe che gli sono capitate alla macumba fatta lì dal papà della Chieng dopo che lui ci aveva litigato. Ancora. Dopo due giorni il famoso cornetto si è rotto in due. Incontro questo collega napoletano e gli dico: cazzo, bel cornetto garantito che mi hai dato. Dopo due giorni si è spezzato, questo fa un passo indietro e dice: anatema, tu hai delle forze maligne totali che girano intorno a te. Adesso vado a casa e cerco di recuperare la contromossa. Dopo tre giorni arriva, ha consultato una maga più potente della prima e mi ha detto: abbiamo preso questo cornetto d'argento, la maga l'ha messo sotto carica, come si caricano le pile, lo mettono sotto l'osservazione della maga, e contro di questo nessuno avrà mai più ragione. Ho preso il secondo cornetto e l'ho messo in tasca. che diventa canzone. E la riforma che è arrivata, io lo dico francamente, la riforma che è arrivata, lo dico in inglese se no i giornalisti ci offendono, è una bella merda, punto. E io il ferro caldo continuavo a piegarlo e quella riforma l'ho rivoltata come un calzino. È una riforma bella alla fine, siamo passati da una bella merda a una merdina, ma di merdina sempre si tratta. Calderoli, che ricordiamo è il relatore della riforma del Senato, così come è stata votata quest'estate al Senato, e che niente, non ce la fa proprio ad arrivare a crescere, insomma ad arrivare a un'età media anagrafica di 15, 16, 17 anni. Quando è che si smette di dire merda, merdina, cacca, quelle cose lì? Non lo so, 16, 17 anni forse. E va bene, questo è Calderoli, che però, lo ripetiamo, ha avuto il coraggio di sfidare il pregiudizio animalista. Che diventa indecente quando... A volte però mi sembra che sia un po' la fiera delle vanità, insomma, dove appunto si dimentica ormai il motivo per cui questa campagna è partita, e ormai diventa una specie di gioco di massa in cui tutti a gettarsi secchiate. Questo era Barbacetto a proposito di Ice Bucket Challenge, lo sapete ormai, la sfida a gettarsi un secchio di acqua gelata sulla testa e a fare donazioni. Qualcuno dice si sono visti tanti secchi di acqua gelata, tante facce di VIP sui social network, non chissà se tutti hanno fatto le donazioni. Sicuramente crediamo di sì, speriamo di sì e pensiamo di sì. Il bilancio per ora è molto positivo, perché pensate che questa campagna è riuscita a raccogliere in tutto il mondo a favore della SLA 71 milioni di euro in credo poco meno di un mese, quando l'anno scorso in tutto l'anno aveva raccolto 2 milioni di euro. Quindi una campagna straordinariamente positiva. Non so come si faccia a criticarla solo perché i VIP ci hanno messo la faccia e i VIP non sempre stanno simpatici, anzi ci si diverte a criticarli, però il risultato è straordinario. Qualcuno se l'è preso invece con Luciana Littizzetto, che ha fatto anche lei la sua scena e ha mostrato la banconota, soli 100 euro ha detto qualcuno, soli 100. Allora, intanto ringrazio quel pirla di Fazio che mi ha nominato, poi qua ci sono i miei 100 euro, perché non dimentichiamoci che questo serve per la ricerca, per la SLA. Tutto questo viene dedicato alla mia amica Silvia e io nomino a mia volta due: Claudio Bisio, che non ha problemi ad asciugarsi i capelli, e la Gialappas, che sono due, ma è un'unica entità. Sono pronta? Vai! Dite voi. 100 euro aveva in mano, ma forse qualcuno dice l'ha fatto per far vedere alla gente che bisogna fare la donazione, e ha tirato fuori una banconota alla portata di tutti. Chissà poi quale sarà la donazione che ha fatto Luciana Littizzetto, forse di più, speriamo di più. Ancora, Matteo Renzi, acclamato al meeting di Comunione Liberazione di Rimini, però non va assolutamente, non andrà al meeting per la delusione di Formigoni. Quando vedo te. La presenza di Renzi, come di ogni Presidente del Consiglio, sarebbe stato certamente un avvenimento importante, anche perché, vede, quando i Presidenti del Consiglio, in genere le personalità politiche, arrivano a Rimini, hanno un'immagine del meeting e invece improvvisamente si trovano davanti a un mondo completamente diverso. Dove passi tu? Dove passi tu? Il giorno del giuramento, io me lo ricordo, Lebettino, il giorno del giuramento dice: i 60 miliardi di debiti della pubblica amministrazione con le imprese saranno eliminate, e avrebbe sbloccato subito, ma non sono neanche state sbloccate neanche la metà dei 60 miliardi. C'è una campagna stampa contro il movimento che è vergognosa, e siamo a favore del terrorismo, dialoghiamo con i terroristi e non con il governo. Queste sono schifezze del nostro Ebettino Presidente del Consiglio, che se tornassi indietro non solo non parlerei con lui come ho fatto, dicendo che è una persona non coerente e non affidabile, come gli ho detto, ma direi che è un bugiardo, un falso e un ipocrita. 800 24 00 24. Dunque, tra poco cominciamo anche con i vostri interventi, ma cominciamo tornando da quel cartello posto davanti al supermercato di Catania che chiedeva ai clienti di non fare l'elemosina. Un cartello perché gli accattoni guadagnano anche 60-80 euro, ricorderete. Un cartello che si è moltiplicato in tante città e adesso in alcune di queste città ci sono anche delle ordinanze contro l'elemosina. E faccio il lavavetri, sono in un mare di guai, ma tu questo non lo sai. Io sono un immigrato, mi guardi dietro i vetri, raccolgo i soldi per tutta la mia famiglia. 3 metri quadri di stanza li condivido con un mio connazionale. Pensa che la casa quasi ci cade in testa, mentre tu sei con il macchinone e gli amici a fare festa. Semaforo ti lavo il vetro, non mi guardi, non mi paghi, tu mi insulti e mi mandi a quel paese. Preferire un atteggiamento umano, un sorriso, una stretta di mano. Un immigrato e faccio il lavavetri, sono in un mare di guai, ma tu questo non lo sai. Io sono un immigrato, mi guardi dietro i vetri, raccolgo i soldi per tutta la mia famiglia. 3 metri quadri di stanza li condivido con un mio connazionale. Pensa che la casa quasi ci cade in testa, mentre tu sei con il macchinone e gli amici a fare festa. Semaforo ti lavo il vetro, non mi guardi. Insomma, l'abbiamo detto, in alcune città si annuncia già a settembre, ma da qualche parte ci sono già delle ordinanze contro l'elemosina, contro l'accattonaggio, contro la questua, contro in alcuni casi gli ubriachi per strada, contro tante cose che sicuramente infastidiscono i cittadini, a volte preoccupano. Certo, c'è da domandarsi se in un paese con un record di evasione fiscale, con una classe politica ai minimi termini, ridotta ai minimi termini, una disoccupazione oltre l'11%, 7 anni per fare un processo civile, se il problema più importante sia questo dell'elemosina, contro il quale si stanno muovendo diversi sindaci con delle ordinanze vere e proprie. Ad anticipare un po' i tempi è stato Monza e noi abbiamo qua con noi il sindaco di Monza, che è anche vicepresidente dell'ANCI Lombardia, tra l'altro, Roberto Scanagatti. Buonasera. Buonasera. Senta, esattamente che cosa avete deciso di vietare nel vostro comune? Abbiamo deciso non tanto di vietare quanto cercare di limitare dei fenomeni che sono sicuramente legati al disagio sociale, e non sono soltanto quelli dell'accattonaggio, ma soprattutto quello dell'accattonaggio molesto, quello che utilizza per esempio invalidi, che utilizza minori, ma anche l'uso indiscriminato di alcol, che spesso, e questo non ha purtroppo, come dire, provenienza geografica di nessun tipo, limita fortemente un uso anche degli spazi pubblici nelle città. Ma avete avuto, avete avuto segnalazioni da parte dei cittadini su questa? Direi che abbiamo fatto qualcosa di più, sì, a differenza di quello che magari è stato fatto nel passato, dove sono state fatte ordinanze, come dire, un po' general generiche, un po' da sindaco sceriffo, insomma. Noi abbiamo fatto qualcosa di diverso, abbiamo cercato di mettere sotto controllo i punti più critici della nostra città, sì, che sono stati segnalati sicuramente da parte dei cittadini, ma che non sfuggono a qualunque visitatore della nostra città, perché spesso avvengono all'interno del centro storico o agli incroci pericolosi di alcuni semafori. E dopo, devo dire, 3 mesi di lavoro, producendo anche un dossier fotografico molto corposo, d'accordo con la prefettura, ho appunto emesso questa ordinanza di fine, sì, luglio, che prende in considerazione questi aspetti. Ripeto, non abbiamo sicuramente l'ambizione di risolvere il problema, ma quantomeno cercare di limitarlo. Senta, adesso io vado magari un po' controcorrente, perché queste sono cose che poi sulle quali i cittadini si infervorano facilmente, però voglio dire, l'accattonaggio, l'elemosina, insomma, sono cose che sono sempre esistite. Ognuno in coscienza può dare, può non dare, a volte si tira dritto, si gira la testa dall'altra parte, però fa parte anche un po' di quella umana pietà, umana compassione che bisogna avere per gli ultimi. Io personalmente non farei mai a cambio con uno che vive di elemosina, anche se posso pensare male quanto voglio di tutto questo. Perché vi siete invece decisi a muovervi su questa strada? Ed è quando le dico che in realtà abbiamo scelto dei punti specifici, sì, della città, significa che molto probabilmente da altre parti dove questo fenomeno è presente, ed è presente perché appunto la crisi comporta anche situazioni di questo genere, laddove quindi non c'è una messa in discussione di quello che è il diritto legittimo da parte del cittadino a potersi muovere in sicurezza, non abbiamo ritenuto di adottare questo provvedimento. Le ripeto, questa ordinanza è un po' diversa rispetto a quelle delle altre, perché tra l'altro la sua è una giunta, diciamolo, di centrosinistra. Per esempio, uno dei sindaci che si sta muovendo su questo, Bitonci a Padova della Lega, ha annunciato tolleranza zero assolutamente su tutto il fenomeno delle elemosine. Non voglio entrare in polemica, l'ho detto prima, io non credo che non ci sia un problema, è sbagliato pensare che ci sia un problema di carattere ideologico alla base, diciamo, di questo. Certo, ci sono modalità diverse che possono essere attuate. Per quanto ci riguarda, noi oltretutto cerchiamo anche di accompagnare con un possibile percorso anche di recupero. Noi siamo anche convinti che un'ordinanza di questo genere, che rende un po' più stringente l'azione anche da parte non soltanto della polizia locale ma anche delle altre forze dell'ordine, può anche in qualche modo indurre qualcuno a cercare, come dire, di uscire da una situazione che spesso è una situazione anche di degrado, dove anche la dignità umana viene messa in discussione. Ma noi abbiamo un servizio, sì, abbiamo un servizio sociale, abbiamo un'organizzazione del volontariato che agiscono sul territorio e che cercano soprattutto nei confronti di quelle persone che appunto scelgono di vivere per strada, di offrire anche un minimo di supporto. Sì. Spesso purtroppo questo supporto viene negato, ma qui stiamo parlando di qualcosa di diverso, qui stiamo parlando di fenomeni che sono di degrado ma che si accompagnano anche a veri e propri fenomeni di violenza lungo per le nostre strade, in alcuni parchi pubblici, dove viene proprio anche messa in discussione il legittimo diritto da parte dei cittadini di poter fruire di questi spazi che sono anche loro. Una delle cose che si dice spesso a proposito dell'elemosina, di chi vive di elemosina, è che poi questi soldi spesso non vanno a finire nelle disponibilità delle persone, ma esiste un racket, ci sono state delle inchieste da parte delle autorità, della magistratura, della polizia, anche a Milano tempo fa ci fu una cosa di questo genere. Da voi a Monza, per quello che avete potuto capire, esiste anche questo rischio, cioè di persone che in realtà sono anche schiave, spesso magari vediamo dei bambini, non è detto che sia una loro decisione quella di andare a fare l'elemosina. Lei ha centrato perfettamente il punto, è l'altro aspetto dell'ordinanza. L'ordinanza che va appunto a intervenire nei confronti di particolari aree e, diciamo, di particolari soggetti che appunto hanno gravi disabilità oppure si accompagnano a minori, tende proprio a in qualche modo mettere in difficoltà il racket, che evidentemente, se non ci sono regole, se non ci sono controlli, se non ci sono misure che in qualche modo possono mettere in discussione i guadagni che si fanno nei confronti di queste povere persone, chiaramente continueranno in maniera del tutto indisturbata. Uno degli obiettivi che noi vogliamo raggiungere è anche questo. Tenga conto che l'ordinanza è temporanea, nel senso che avrà una durata di 6 mesi, al termine del quale faremo le opportune verifiche, cercheremo di capire se questo strumento è stato uno strumento efficace e soprattutto cercheremo di fare in modo che, accompagnando questi atti di carattere repressivo, ci sia però anche la possibilità per chi vuole di poter uscire dalla condizione in cui si trova. Mi rendo conto che è difficile, perché qui si mischia appunto un disagio che è quello dei giorni nostri, della crisi, con delle situazioni che non sono di altro tipo, perché parliamo di persone che provengono da paesi lontani, sì, che vengono letteralmente schiavizzate. Noi non vogliamo nemmeno mettere tutto insieme, non vogliamo farne un calderone, però vogliamo almeno cercare di capire in che modo possiamo affrontare concretamente questo problema. Vorrei dire che i sindaci sono anche abbastanza soli nell'affrontare questo tipo di problemi, perché mi rendo conto ce ne sono anche di più ampi, di più importanti, e prima ne ha indicati alcuni, però sicuramente le cose che dicevo io magari non sono cose di che nostra stretta competenza. Esatto, di competenza di un sindaco, di un'amministrazione comunale, però di fare la mia parte, ecco, per quello che mi compete. Quindi lei, diciamo, questa questione, diciamo, della sicurezza per strada e della lotta, diciamo, all'accattonaggio, all'accattonaggio molesto, che graduatoria darebbe di priorità per quanto riguarda il suo comune? Cioè, da 1 a 10, dove lo posizionerebbe? Non lo so, probabilmente lo posizionerei magari a metà, perché la prima cosa che mi interessa è che i miei cittadini possano avere un reddito che consenta loro di poter vivere con dignità. Questo è sicuramente il primo problema, così perché come vorrei poter sospetto, dare viene la il casa sospetto, a tanti che la casa non ce l'hanno. Sì, viene il sospetto, poter, sindaco, sì, che con le regole del patto di stabilità, con l'impossibilità di fare investimenti sul territorio da parte del comune, eccetera, eccetera, alla fine l'attività dei comuni, di molti di voi, i sindaci, sia anche al di là della vostra volontà ridotta a volte anche a cose magari di questo livello, sempre, diciamo, dando importanza al fatto, ecco, questo sì, però di questo livello e magari non di altre cose più importanti che non si può aspettare, politiche per la casa. Ha ragione, ma se mi consente, sì, io faccio il sindaco cercando di non voltarmi da un'altra parte dando la colpa a qualcun altro. Nel limite del possibile cerco di fare quello che ritengo giusto, evidentemente sbagliando, individuando delle priorità che per quanto mi riguarda sono le scuole pubbliche, sono le strade, i marciapiedi, l'accesso alla disabilità, evitare un eccessivo consumo di suolo, quindi come vede politiche anche dell'abitare che possano dare delle risposte a chi oggi una casa non ce l'ha, quindi come vede delle politiche che si scontrano spesso con il fatto di non avere le risorse sufficienti. Noi abbiamo già approvato con fatica il nostro bilancio a luglio e con fatica cerchiamo di dare delle risposte concrete. Sul versante della sicurezza, ma se mi consente, sul versante anche della dignità, sì, delle persone, e in questo senso questa ordinanza cerca di seguire anche questo crinale, che mi rendo conto è molto difficile, probabilmente andremo incontro a delle critiche e magari anche dei fallimenti, però almeno è il tentativo di dare delle risposte che altrimenti rischiano di essere, come dire, lasciate lì o peggio ancora dicendo che è colpa di qualcun altro, è colpa in generale di una situazione. Ecco, io credo che effettivamente ci sono delle responsabilità, ciascuno se deve prendere. Sentirsi con un papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Si può fare l'attualità anche d'estate. Allora, eccoci qua, andiamo con Claudio che ci chiama da Trento. Buonasera Claudio. Buonasera, sono Claudio Cia e sono consigliere comunale di Trento. E guarda, il problema degli accattoni purtroppo è una realtà che interessa anche la nostra città. Sì. E direi che sono in aumento rispetto al passato, nonostante ci sia un regolamento del comune che ne vieti la pratica. Pensi che, cioè, cosa vieta esattamente, mi scusi, il regolamento del suo comune? Perché qua è facile capire male o... No, vieta semplicemente l'accattonaggio in tutti i sensi. Cioè non si può chiedere l'elemosina a Trento? No, non si può chiedere l'elemosina davanti a chiese, ospedali, giardini pubblici, scuole... Nemmeno davanti a una chiesa si può chiedere l'elemosina? No, assolutamente. Cioè no, uno che sta morendo di fame, che deve fare? Ma guardi, abbiamo... Adesso la butto lì giù un po' estrema, perché sì, non ho visto nessuno morire di fame a Trento, però. Certo. No, appunto, concordo con lei. Guardi, abbiamo la Caritas, abbiamo comunque anche i servizi sociali del comune che comunque sono molto attivi. Cioè, dice, abbiamo servizi che funzionano, quindi non è inutile chiedere l'elemosina per strada. Abbiamo anche le mense dei poveri tenute da religiosi, quindi direi che siamo ben attrezzati in questo senso. E comunque sappia che il problema della accattonaggio di Trento non riguarda i trentini. Pensi che Nel 2012, sì, ad esempio, le porto un dato, sono state date, mi pare, quasi 500 sanzioni per appunto la pratica dell'accattonaggio, e di queste solo una è stata pagata. Guardi, lei era l'unico trentino che ha provato a fare l'accattonaggio. Beh, sì, è chiaro che se uno fa la multa a un accattone è difficile che la paghi. No, ma però per dire che sono tutte persone che provengono dall'estero. E noi a tal punto abbiamo dei gruppi di accattoni che sono ben organizzati. Direi che addirittura c'è proprio un vero racket dietro a questa pratica. E questi accattoni vengono per un periodo, no? Occupano delle zone verdi della nostra città e impiantano delle vere e proprie baraccopoli, prive di ogni servizio, che quindi anche li mette in condizione di vivere in situazione piuttosto... Quindi, cioè, mi scusi, al di là però del fatto di chiedere o meno l'elemosina, ci sono altri problemi, insomma. No, fare una baraccopoli in un parco pubblico chiaramente non è, può essere, credo, tollerabile. Ma però, ecco, ma questi vengono, raccolgono 3-4 mila euro, poi spariscono, vengono sostituiti da un altro gruppo e così via. Quindi diciamo che il consentire, comunque essere tolleranti nel confronto dell'accattonaggio, alla fine poi porta anche a queste situazioni di degrado, perché evidentemente le persone che praticano questa, questa, diciamo, professione, perché possiamo definirla professione in certi casi, si sentono praticamente legittimati e quindi si sostituiscono a gruppi e continuano ad essere sempre presenti. Ma questa territorio. Questione del racket, Claudio, lei che è consigliere comunale a Trento e conosce questa situazione, insomma, perché l'avrà affrontata anche professionalmente in consiglio comunale a Trento. Questa cosa del racket diciamo, è confermata, palesata, ci sono delle inchieste? Ma guarda, anche in consiglio comunale l'assessore competente alle politiche sociali aveva candidamente detto: guardate, questi vengono, raccolgono del denaro, poi tornano nella loro terra e vengono sostituiti da altri, da un altro gruppo. E c'è quindi un'organizzazione, perché pensi che la stazione di Trento addirittura arrivano con il treno delle persone, alla mattina un furgoncino li distribuisce intorno per la città per poi ripigliarle la sera e quindi rimbarcarle sul treno. Quindi c'è una vera e propria organizzazione dietro. Va bene, grazie Claudio per questa sua approfondita telefonata da Trento. Gennaro da Napoli, buonasera. A me sembra di vivere in un paese di pazze, perché prima andiamo raccogliendo in tutto il Mediterraneo più di 100.000 persone che non hanno come mangiare, poi arrivano qui e gli vietiamo di accattonare. Che devono fare? Rubare? Rapinare? Quale altro modo hanno? Per secondo capire? Quello che dicevano a Trento a Monza, devono andare ai servizi sociali che offrono aiuto, la Caritas, le chiese, i servizi. Non è assolutamente sufficiente, all'estero non li vogliono. Io sono stato in un supermercato di Nizza, non c'era un francese, a centro Nizza glieli vogliamo mandare lì, hanno già la loro razione, ce li rispediscono qui, noi vogliamo fare la generosità con i soldi degli altri senza avere i soldi per fare, allora decidiamoci. Perché a me pare veramente un delirio vietare l'accattonaggio e poi andare raccogliendo tutti gli affamati, i profughi, i disperati e portarceli qui. Ma che devono mangiare? Ma lei lo sa che molta gente non è potuta andare in vacanza, anche di ceti elevatissimi che io conosco, e poi questi vanno nei 3 stelle e schifano pure i nostri 3 stelle, mentre noi non ci possiamo andare e ci rimandiamo con le nostre tasse? Si rende conto noi in che paese viviamo? Io lo trovo veramente un manicomio a cielo aperto. È arrivato il momento in cui gli italiani debbano ribellarsi, perché questa situazione è intollerabile, questa è follia. Ecco, ribellarsi per fare che cosa, Gennaro? Innanzitutto per fermare Mare Nostrum, che è veramente un'offesa alla nostra condizione, perché io vivo a Napoli e so quanta gente ha difficoltà economiche. Però guardi, fermare Mare Nostrum non vuol dire fermare gli immigrati, questo lei lo sa benissimo. Se ne arrivano ancora di più e muoiono lo stesso, allora con dando un segnale preciso, andando in Libia e sostituendosi a uno Stato che non c'è e quindi fermando questa questo cosa, è un problema. Però andare in Libia non si può da sostituirsi a uno Stato che non c'è, perché lì si stanno lanciando le bombe, i razzi, i colpi di Kalashnikov. Non è che si può andare in Libia tanto facilmente adesso. Prima si poteva, prima che scoppiasse la guerra. Ma anche andare per ricreare, per fermare questa situazione, o no? Perché ci siamo andati per l'uranio. Sì, la guerra in Libia è stata fatta. Cioè lei andrebbe in Libia a sedare la guerra per fermare il flusso di governabilità. Guardi, poi questo però sarebbe un impegno militare ed economico notevole, cioè... Ma se non posso dimenticare, lei mi dice io non posso dimenticare, bene, come mangio? Sì, sì, no, ma guardi, lo dice a me, io rispetto a queste ordinanze che vietano l'accattonaggio... Io le trovo veramente ridicole. Anch'io le trovo abbastanza ridicole, abbastanza. Capisco le situazioni singole delle città, per esempio Trento è una città dove ci sono, io ci sono stato diverse volte, bisogna dirlo, ci sono, c'è diversa gente in giro, non propriamente raccomandabile, facce che magari dopo una certa ora di sera possono anche... Però non so se è una questione di accattonaggio o di vagabondismo o di altro, perché poi l'elemosina in sé non mi sembra il momento peggiore di tutto questo. Guardi, io ho proprio una paura fisica e respiro un clima di paura fisica diffusa nella collettività. Va bene, Gennaro, grazie, buona serata. Sì. Gente che non possiamo mantenere, sì, sì, non possiamo mantenere. Abbiamo, questo abbiamo capito. Andiamo con Renzo che ci chiama da Imperia. Renzo? Pronto? Renzo, pronto, ci sente? Sono... Sì. Sì, la sento. Sono Renzo da Imperia. Benissimo. Sono brevissimo, contrariamente a quelli che mi hanno preceduto. Dunque, io le posso dire che ho una grande sensibilità nei riguardi di tutti quelli che soffrono e in particolare di quelli che hanno la SLA. Però mi sembra assolutamente ridicolo farsi gettare sulla testa una secchiata d'acqua gelata in agosto. Perché non lo fanno in gennaio? Vabbè, ma... Fine della domanda. Sì, ma che domanda è, scusi? Che domanda è? Vedere un po' la logica, dov'è? Cioè, no, ma la logica però mi sfugge, la logica della sua domanda. Questa campagna è partita dall'America, quando è partita la redazione, non lo so, qualche settimana fa credo, forse meno di un mese fa. Dovevano farla partire a gennaio perché sarebbe stata più... No, io dico che... No. Cosa dice allora? La mia è una domanda retorica. In sostanza, volevo semplicemente dire questo, che farsi gettare dell'acqua fredda sulla testa in agosto... Non è che abbia molto senso. Però guardi, quella è la lei vede la parte più stupida della faccenda. È ovvio, gettarsi in seco non serve a nulla. Quello che serve è la donazione, no? Questo è quello che conta. Lo credo bene che quella che quella è solo una rappresentazione giocosa. Che però guardi, che questo sistema qua ha funzionato al punto che la raccolta è arrivata a 71 milioni di dollari in meno di un mese. L'anno scorso ne avevano raccolti due, con questo scherzo qua che lei dice che è una cosa ridicola. Però ha preso piede. Io adesso guardi, do una spiegazione un po' più profonda alla mia domanda cosiddetta retorica. Si dia la risposta da solo alla sua domanda. Non mi piace la spettacolarizzazione del dolore, cioè che si faccia della beneficenza spettacolo. Renzo, ho capito benissimo, lei è contro la spettacolarizzazione, potremmo anche essere d'accordo, ma se la spettacolarizzazione serve a raccogliere 71 milioni di dollari nel mondo contro la SLA, per la ricerca per la SLA, questo ben venga, no? È questo il punto. È che se ne parli, e lei vedi, ne stiamo parlando di questa cosa, e parliamo della SLA, che è una malattia terribile, contro cui però bisogna fare qualcosa, ne parliamo perché c'è questa cosa, c'è questo gioco, e quindi è un risultato ottimo quello che è stato raggiunto. Certo, ma l'idea di partenza, loro quando sono partiti con questa idea non potevano sapere che avrebbe avuto questo grosso successo. Però l'ha avuto, va bene, lei avrebbe fatto? Che cosa avrebbe proposto? Guardi, le posso magari dire. Magari lanciamo adesso io e lei un'altra campagna straordinaria, Renzo. Era una domanda, siccome mi rifiuto di essere intelligente 24 ore su 24. Ah, vabbè, questa è buona. Aveva staccato un attimo il cervello e voleva ridere un po'. Va bene, Renzo, ci può stare anche questo. Grazie, buona serata. Paolo da Treviso. Sì, buonasera. Velocissimo, perché anch'io ho un impegno adesso, e quindi ritorniamo sul discorso dell'accattonaggio. L'accattonaggio organizzato è da reprimere nel modo più assoluto, ed è il 99% dell'accattonaggio che si vede in giro. È inutile credere che ci sia accattonaggio non organizzato, basta semplicemente guardarsi attorno e si vedrà che non sono gli immigrati che sono appena arrivati che sono accattoni, ma sono altri personaggi che vengono distribuiti ai semafori, davanti alle chiese, nelle strade, e che litigano quando per caso si incontrano. È successo ieri in Piazza dei Signori a Treviso, due accattoni di due gruppi differenti che per poco si menavano in Piazza dei Signori, e non ero l'unico che l'ha visto, ma tutta Treviso ha visto la scena. Quindi fidatevi, è una cosa che deve essere repressa, deve essere controllata, e soprattutto io vorrei tanto che si vedesse un accattone, un povero italiano che viene aiutato, perché sono loro che hanno veramente bisogno. Gli altri sono organizzati e se li fumano e se li bevono e se li giocano. Guarda, il fatto che siano organizzati non vuol dire che non abbiano bisogno. Cioè il racket, le prime vittime del racket non siamo noi che diamo le 1.000 lire, ma sono quelle persone che ricevono le 1.000 lire e non guadagnano, ma le danno al racket. Non deve pensare però questo. Mi scusi. Sì. Io ho assistito di persona alla scena della ragazzina che si svuota le tasche dalle monete, sì, entra nel bar, chiede al bar che cambi le monete in lire. Eravamo ma questo però non c'entra nulla col racket. Questo è, come dire, gente che, secondo quello che ha visto lei, vive di elemosina, turlupinando e prendendo in giro chi fa l'elemosina perché non ha realmente bisogno, ma quello non c'entra nulla con racket, è ancora un'altra cosa. Ci può stare, se lei mi racconta di averlo visto, sicuramente ci sarà anche questo, Nello stesso bar, sì, alla sera si ritrovano i personaggi che raccolgono queste, sì, persone e raccolgono i soldi e si ubriacano di whisky tutti e di insieme, altre sostanze, tutti insieme, alla faccia nostra che abbiamo dato l'elemosina. E io da quel giorno, da quando ho assistito quella scena, non faccio più l'elemosina se non so esattamente chi è la persona che riceve i soldi. Soltanto questo, fate l'elemosina, fatela a chi veramente ha bisogno e non a queste bande di disgraziati. Grazie Paolo, grazie. I bianchi, i neri, la religione, il pessimismo della ragione, la foto di gruppo, il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le 8 principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi, i diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione, però non c'è pietà e non c'è compassione, il sangue si coagula sul pavimento, si inceppa l'articolazione del movimento, la voce che balbetta, la speranza che inciampa, la capra che crepa, la capra che campa, la giornalista scrittrice che ama la guerra perché le ricorda quando era giovane e bella, amici e nemici, che comodità, villaggi di fango contro grandi città. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvami. Mettete per un attimo da parte le discussioni sull'immigrazione, il ruolo degli immigrati che possono avere nel nostro paese, se sono una risorsa o se sono un problema. Mettiamo da parte tutto questo e focalizziamo l'attenzione sulla traversata, sul canale di Sicilia dove passano le barche con delle persone a bordo. Mentre l'Italia, Alfano e Renzi litigano con l'Europa per chi ha la responsabilità di controllo del canale di Sicilia, c'è chi di tasca sua mette i soldi, arma una nave e va ad aiutare gli immigrati che rischiano la loro vita nel passaggio. Oggi è salpata la prima nave dell'operazione MOAS, Migrant Offshore Aid Station, una iniziativa nata dall'imprenditrice italiana Regina Cattrambrone, che noi abbiamo qua con noi questa sera. Buonasera. Buonasera. Una cosa credo senza precedenti, cioè dei privati, lei e suo marito, che state a Malta, credo. Sì, viviamo a Malta. Avete deciso di armare una nave, investendo del vostro, in questa estate, dove ci sono più sbarchi, perché l'estate è favorevole per gli sbarchi, per andare a dare una mano dove c'è bisogno, perché c'è sempre bisogno di questo, è vero? Purtroppo molte persone stanno morendo in mare, seppure il Mare Nostrum sta facendo del suo meglio. Quando qualche settimana fa c'è stata quella situazione delle persone che si sono accoltellate perché cercavano di uscire fuori dalla tambusa, è stato molto deprimente. Senta, ma come avete maturato? Lei è un'imprenditrice, di cosa si occupa, diciamo, nella sua attività principale? Io e mio marito abbiamo una compagnia e non ci occupiamo di questo. In un certo qual modo tocchiamo questo settore, perché abbiamo lavorato in Iraq e Afghanistan, abbiamo assistito delle compagnie americane a fare delle evacuazioni, delle ricerche. Però abbiamo diverse compagnie, non ci occupiamo solo di questo. Senta, abbiamo un leve disturbo sulla linea, proviamo a migliorare un attimo il collegamento con Regina Cattrambrone, che ci stava raccontando di questo. Proviamo a migliorare la linea telefonica, intanto sentiamo un ascoltatore per qualche secondo. Gino dalla provincia di Foggia, buonasera. Sì, buonasera a lei, buonasera a lei. Grazie di avermi chiamato. Io voglio anticiparle una cosa, sono un po' fuori corrente. Sì, sì, dica, dica. Dunque, per quanto concerne l'accantonaggio, si figuri se come si fa a rifiutare uno che chiede la carità, ma però, ma le istituzioni, porca miseria, ma dove sono? Fanno entrare centinaia di migliaia di queste persone. Gino, scusi un secondo perché abbiamo l'ospite in linea e poi con lei continuiamo più tardi. Regina Catambrone, adesso speriamo di sentirla meglio. Ci stava... Posso fare una correzione? Il mio cognome è Catrambone. Catrambone, mi scusi, perché leggo da un articolo... Sì, no, è scritto correttamente anche sull'articolo di stampa. Allora, cosa vi ha spinto? Qual è la motivazione che vi ha spinto ad agire? Beh, la motivazione è molto semplice. Abbiamo visto che ci sono tante persone che stavano morendo in mare. Prima dell'operazione Mare Nostrum non ci stava lì nessuno. Adesso diciamo che grazie al Mare Nostrum il numero di persone è molto mitigato. E noi stiamo cercando di rispondere alla richiesta di aiuto del Papa Francesco, che più volte in Rai lancia i suoi messaggi di aiuto per i migranti, e anche all'Italia nel nostro piccolo. E che cosa fate esattamente? Cioè all'interno di quelle che sono le procedure consentite, perché non è che penso che uno possa andare può andare in mare tranquillamente, se vede qualcuno che ha bisogno di aiuto lo aiuta, è questo quello che fate? Beh, diciamo che è un po' più diverso, perché noi non siamo un peschereccio o giusto una nave lì che passa per caso. Noi abbiamo diversi paramedici, si alterneranno perché sono dei volontari, e abbiamo due dinghy, due gommoni veloci, abbiamo dei salvagenti, giubbotti di salvataggio a bordo, abbiamo acqua da dare in caso incontreremo i migranti, sicuramente li incontreremo, abbiamo due droni che si alzeranno in volo e pattuglieranno le acque alla ricerca di navi in condizioni di stress. E quando dico in condizioni di stress non significa che stiano solamente affondando, ma anche il numero delle persone quando è più del dovuto. Certo, le imbarcazioni sono a rischio. Senta, ma lei non si sente il rischio di l'accusa di collaborare con chi favorisce il traffico degli immigrati, dei clandestini, di dare una mano a tutto questo, di favorire tutto questo? No, assolutamente no. Perché io non faccio traffico. Io, questa Migrant Offshore Aid Station è una postazione di aiuto in mare. Sì. Quindi noi siamo lì perché pensiamo, come è giusto che sia, il diritto alla vita, nessuno deve morire in mare, a prescindere dal colore della pelle. E noi non saremo un free taxi da una parte all'altra. Noi subito comunicheremo all'Italia o a Malta la postazione, in modo tale che loro sappiano che ci sta quella nave, poi se noi possiamo agire ci danno il go ahead, ci danno la via libera per andare, noi agiremo se la nave non è in condizioni di stress. Naturalmente se stanno affondando è missione di soccorso in acque internazionali. E lei pensa che quello che fate voi potrebbero magari farlo anche altri, cioè creare altre navi come queste che possano evitare che ci siano altre persone che muoiono in mare? C'è un invito che si sentirebbe di fare. L'Italia sta chiedendo aiuto, chiede aiuto, il Papa chiede aiuto. Se non arriva l'aiuto dall'Europa, cosa dobbiamo fare? Brava, e voi cosa avete pensato giustamente di fare, anziché di stare ad aspettare? Noi abbiamo pensato di acquistare un'imbarcazione, di comprare dei dinghy, dei gommoni veloci, di noleggiare questi droni. Questa è stata la nostra idea. Cioè, ci sono queste persone che sono disperate, certo. E non stanno andando in vacanza, stanno scappando dalla guerra. Ci sono siriani, persone che vengono da Gaza, palestinesi, israeliani. Cioè, e soprattutto io cerco sempre di pensare ai bambini che stanno arrivando. Ci sono tanti, io ho parlato con la direttrice di Save the Children Italy, ci sono tanti bambini minori che sono lì nelle imbarcazioni e non sono neanche accompagnati dai genitori, perché i genitori investono e cercano di dare un futuro a questi bambini, ma questi bambini se muoiono in mare è tutto perso. Complimenti per il coraggio, per quello che fate. Nessuno ve lo ha chiesto, cioè avete sentito una richiesta, però non eravate obbligati naturalmente a investire, a fare del vostro, e questa è una cosa che capita raramente, sicuramente capita raramente. Siete appena partiti con le operazioni, quindi non avete avuto ancora modo di incontrare nessuno, credo, nel canale di Sicilia o... Guarda, le dico che appena adesso mi sono precipitata a casa per avere questa intervista telefonica con lei. Ero sulla nave un'oretta fa, perché c'era il lancio e tutto, c'era la conferenza stampa. Noi adesso la nave farà delle esercitazioni e in mare. E via ad aiutare chi ha bisogno. Grazie per essere stata grazie con noi, Regina Catrambone. Buonasera. Vorrei solamente dire, per chi ci vuole seguire, e abbiamo un sito www.moas.eu. Grazie per l'ascolto. Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia. Dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu. Martedì mattina c'è il diluvio universale, cosa assolutamente normale in questo mese d'agosto, perché viene il diluvio universale dappertutto, e sento i cani che si attaccano, fanno un casino bestiale in giardino. Vado a vedere e stanno litigando con un serpente che, per scappare i cani, si infila nella cucina di casa mia. C'erano le porte aperte, però c'è la griglia per non far entrare i cani, e lui ci è passato. Era già bello acciaccato, però cazzo, era lungo 2,20 metri, poi l'ho misurato. Sono tutte delle verginelle, povero serpentello, povero un cazzo, 2,20 metri di serpente. Il cobra non è... Calderoli sfida il giudizio degli animalisti proprio mentre, nelle stesse ore in cui tutti, politici e non solo, politici a caccia di voti, sicuramente si schierano a favore di Danizza, magari avranno anche delle buone ragioni per difendere l'orsa e i suoi cuccioli che in Trentino è braccata, la cercano dopo che ha aggredito un cacciatore di funghi, una vicenda che sapete tutti, da Lara Comi a Frattini, Gasparri, Laura Puppato, ma anche personaggi come Feltri, DJ Ringo, tutti a favore del l'orso. Calderoli invece non ha paura di mettersi contro gli animalisti e racconta candidamente come e perché ha ucciso qualche giorno fa un serpente innocuo, tra l'altro, peraltro, ma lui non poteva saperlo, che era penetrato nella sua cucina. Questo nuovo Papa Bergoglio, che mi aveva entusiasmato all'inizio, devo dire onestamente, mi sta deludendo ultimamente. Andando nello Stato del Vaticano, io uno in giro, un marocchino, un rom, eccetera, l'ho mai trovato. Perché a casa loro, se uno cerca di entrare, c'è l'arresto. E allora, non è che lui non può, si ritenga nello Stato del Vaticano, ma non ci rimandi più nella Bergamasca, perché non li vogliamo. Punto! Un pensiero frequente. Dal suo blog Beppe Grillo torna a parlare, ne ha per tutti, parla contro Renzi, Berlusconi e anche delle novità in vista per quanto riguarda il PIL. Qualsiasi cosa per far quadrare i conti, vogliono aumentare il PIL di 2 punti perché l'hanno promesso, ci metteranno dentro la droga, ci metteranno dentro la prostituzione, vedrai che il PIL, la nostra ricchezza aumenta del 2%, ecco la loro mentalità, vedrete se non lo faranno. Ma un alamo sospiro che diventa un impero, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Gli 80 euro, gli 80 euro hanno già stimato che sono usciti dalla porta e sono rientrati dalla finestra. Le tasse hanno riassorbito tutto l'impatto che poteva avere di positivo degli 80 euro. Dove passi tu? Dove passi tu? Lo statista nano è condannato, è l'artefice di certe cose non ci puoi fare una legge sulla giustizia, lo capisce anche un bambino, anche Ciro, invece Papino, ma come si fa ad andare avanti così? La marcia di avvicinamento dei Brozzi di Riaci a Milano in vista di Expo. Vittorio Sgarbi, che ha lanciato questa proposta, va avanti con la sua polemica. Noi siamo stati qui a Radio 24, si può fare, gli unici in Italia, nel mondo, nel cosmo, a distogliere, spero forse, Sgarbi e gli italiani tutti da questa idea, perché Sgarbi è bravissimo a lanciare delle provocazioni, tutti dietro, i Brozzi sì, i Brozzi no, portiamone uno, mi si vede di più se vengo, se non vengo. La proposta di Sgarbi è sicuramente affascinante, però noi abbiamo detto: perché solo i Brozzi di Riace? Possiamo portare davanti a Expo qualche altro simbolo dell'Italia e dell'italianità. E insomma, anche parlando con voi ascoltatori, di idee ne sono venute, dal monumenti al genio italiano, inventore del personal computer o della plastica, a opere d'arte legate al futurismo secondo Achille Bonitoliva, oppure addirittura alcuni ascoltatori hanno proposto un mezzo busto di Rocco Siffredi. Un po' come il caso Andreotti. Andreotti era mafioso fino all'80, e dall'80 in poi non è più mafioso. Loro erano viaggiabili fino all'80. Non sono viaggiabili. Ma cosa mi vengono a raccontare? Fino all'80 non erano fragili? Imbecilli! Quando vedo te. L'Italia è piena di monumenti fatti in confusione di bronzo che sono nelle piazze. C'era il Marco Aurelio, a Barletta c'è il Colosso. Il bronzo è invincibile. Chi è fragile è Settis. Chi è fragile è chi parla di cose che non sa. On the beach, sotto solo la pelle bruci, sotto la luna ancora di più. Quando fuori flexi Superman, senza fare love non si può stare. Oh baby. Beach, on the beach, femmine e uomini vanno a caccia, di occhi neri e di occhi blu. Quante signorine very nice fanno uscire pazzo tutti i boys. Ma state qua, you know, per farci innamorare. Mi si nota di più se vengo o se non vengo. Ice Bucket Challenge, la sfida a gettarsi il secchio d'acqua gelata sulla testa. Solidarietà, sicuramente sì. O esibizionismo, molti twittano sui social network, su internet, infervorati, incattiviti contro i VIP che hanno deciso di fare questa cosa, che però, ricordiamolo, è a fine di beneficenza. Ciao Gerry Calà, buonasera. Buonasera cari, buonasera. Carissimo, tu hai deciso di affrontare questa cosa qua in un modo diverso dagli altri, come? Ma guarda, la storia te la dico in breve. Io sì, l'altro giorno ho visto queste simpatiche secchiate tra questi grandi personaggi dello spettacolo, eccetera. E però ho notato che nessuno, diciamo, postava il modo più veloce per fare l'offerta online, no? Perché noi siamo tutti sulle spiagge, qua mi chiedevano ma come si fa, ma come non si fa, e allora ho detto ma vogliamo dire che mi sembra una cosa altrettanto importante delle sì, simpatiche secchiate, come si fa. Mi hanno mandato il sito dove andare, sì, liveisla.it, e io l'ho pubblicato. Allora tu lo sai che insomma la rete è popolata di persone molto intelligenti, ma anche di qualcos'altro. Allora, beh sì, ecco Gerry Calà, allora adesso tu ci dici come fare, però ma tu non sganci. Allora lì il grano, volevano la prova del grano. Volevano la prova del grano, allora io gente detto, malfidata, no, ma ti rendi conto? No. Sì. Scusate tanto, ho detto io quello che dico poi faccio, e allora ho fatto questa offerta di 1000 euro e l'ho pubblicata, insomma mi è sembrata una cosa naturale, anche perché sì, avevo appena letto sull'Huffington Post che insomma in Italia queste secchiate avevano fruttato solo 30.000 euro. È vero, allora ho detto, è vero. Allora io adesso voglio dire da io, solo vali un trentesimo, no, perché è vero, adesso diciamo le cifre per rassicurare anche gli ascoltatori, sì, no, adesso perché sono aumentati, adesso sono aumentati. Bravo, sicuramente al tuo e a quello di altri, però altri, certo, in effetti in Italia siamo intorno ai 100.000 euro, che non sono moltissimi adesso. Ho letto anche 200. Ah, può darsi, io ho visto Lanza oggi pomeriggio, perché nel mondo abbiamo superato i 70 milioni di dollari, una cifra straordinaria, quindi a quelli che dicono che questa cosa non serve, insomma, pensiamoci un attimo, perché invece questa cosa... Però c'è, è vero, però perché abbiamo visto... La magrezza della cosa, allora ho detto anche una frase spiritosa, ho detto: ragazzi, visto che le secchiate dei VIP italiani hanno magri risultati, esatto. Dico, voglio fare un po' il cafoncello, non sarò molto elegante, ma pubblico la mia offerta. E allora lì ci sono state diverse reazioni, perché la gente poi non è mai contenta, mai, perché se mai, non fai mai. Vedere, allora chissà, se fai vedere ecco, esibizionismo. Allora perché ti vuoi fare l'esibizionismo, ma ben venga un po' di sana caffoneria, io dico, sì. Se è a fin di bene, e poi io, insomma, nella mia piccola provocazione volevo invitare soprattutto, è chiaro che la gente normale dà quello che può, dai 5, 10, anche un euro, voglio dire, però insomma noi che abbiamo la fortuna, insomma, di avere più possibilità. Qualche cosina in più. Come giudichi, Jerry, il video di Luciana Littizzetto che ha sventolato una banconota? Ora, no, è brutto parlare male tra voi colleghi sicuramente, ma in generale di fronte a una donazione è troppo, è poco, però lei ha sventolato 100 euro e si è ricevuto, anche lei ha ricevuto molte critiche di gente che forse non c'è niente di meglio da fare, però indiavolata su Twitter, che ha detto: ma come, solo 100 euro la Littizzetto? Poi magari lei ha donato di più, però ha sventolato questa banconota. Ma io non lo so, cioè ognuno dona quello che si sente, voglio dire. Io mi sono sentito, visto le mie forze e i miei averi, mi è sembrato giusto fare, insomma, una cosa che non lo so se è tanto, non lo so se è poco, però mi sembrava una cosa giusta. Se la Littizzetto ha giudicato giusto 100 euro, va bene così. Ognuno è l'uomo. Però ecco, il mio è stato anche, ci tengo a dirlo, sì, un gesto di libertà. Perché se voi notate, quando fanno le grandi trasmissioni di beneficenza, sì, di Teleton, le grandi raccolte, cioè, provateci a far caso che c'è una compagnia di giro che sono sempre quelli che si prendono il merito della beneficenza, e vi assicuro che è difficile entrare. Io non sono mai riuscito a farmi invitare in una bella prima serata di beneficenza. Eppure a te sarebbe piaciuto lavorare e dare una mano a queste cose di solidarietà. Sì, questo ho sempre detto, ma dai, vengo lì a calzare, poi c'è sempre le scuse, ma no, non si può dal vivo. Cioè, tu stai dicendo che a farsi belli per la solidarietà ci sono un gruppo abbastanza ristretto che se la canta e se la suona, anche questo. A volte ho notato questo. Allora io, questo per me, questo qui è stato anche una possibilità, sì. Detto, finalmente posso fare un'offerta. Tra l'altro ha avuto un effetto domino straordinario. Se sono stati raggiunti questi risultati è perché si è creata questa idea di nominare, di contaminare, di estendere, allargare, appunto, effetto domino, per cui tutti si sono sentiti coinvolti, nessuno si è tirato indietro, e sì, sicuramente è bello anche quello. Anche loro hanno dato delle belle cifrette, sono contento. Poi io il mio post di Facebook, sì, della mia ricevuta di PayPal ha raggiunto adesso, sono quasi a 5 milioni di visualizzazioni, quindi vuol dire, insomma, che il mio gesto, insomma, è stato fortino, o no? Forse non si fidavano, Jerry, volevano tutti controllare il grano, quanto grano aveva messo. C'è stato anche qualche deficiente che mi ha detto: ma come mai sulla ricevuta c'è scritto Jerry Calà, che non è il tuo vero nome, il tuo nome d'arte? Allora spiego a tutti. Allora, PayPal non è una carta di credito, è un filtro tra la carta di credito, sì, sì, e sì, il venditore, sì. Per cui tu inserisci i tuoi dati, certo. Dai un nome un'identità. Utente che vuoi, hai capito? Potrebbe però essere anche Pinco Pallo. Fai il furbetto, come tu sei Calogero, come mai? Cioè, la gente veramente. Perché il tuo vero nome è Calogero? Il mio vero nome è Calogero, allora molti sospettosi, hai capito? Ma hai capito? Cioè, veramente. Internet è bello, i social network ancora di più, però c'è anche c'è gente scatenata che non vede l'ora di poter poi censurare. Quello, senti, un'altra cosa, Jerry. Scusami, sì, poi non ti dirò un po' più. Il commento che mi ha divertito, poi a un certo punto, poi hanno pubblicato su internet, anche bello è stato oggi, addirittura TGcom ha detto: da Obama a Calaccio, anche, ragazzi. Questi sono soddisfazioni. Soddisfazioni. E qualcuno, sì, c'è stato uno che ha detto: però certo, un bello smacco che un personaggio personaggio di non elevata cultura abbia fatto questo. Ma questo qua, che cazzo gli ha detto che io non ho un'elevata cultura? Gli volevo dire a questo qua che sì, io intanto ho fatto il liceo classico e che alla maturità hanno corretto la versione di greco con la mia versione che era l'unica giusta. Però col tuo curriculum non se l'aspettava nessuno, onestamente. No, per piacere. Dopodiché io so a memoria l'Ode 5 maggio, il passero solitario. Adesso faccio il passero solitario. E i fusi come immobile, dato un mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così percosse attonita la terra, annunzio sta muta pensando all'ultima ora dell'uomo fatale. Grandissimo. Posso andare avanti? No, sennò non guarda, ieri sera c'era con delle persone, qualcuno ha cominciato a recitare La nebbia agli irticolli e non si ricordava nessuno di chi fosse. Sale sotto il maestrale, urla biancheggia il mare. E quindi vedi, cioè, sei più preparato di tanti che spocchiosi. Senti Jerry, un'ultima cosa te la voglio chiedere, perché i tuoi film sono sempre stati il simbolo, l'estate e anche la voglia, diciamo, di fare sesso. C'è stata questa polemica a Gallipoli per due ragazzi ripresi sulla spiaggia a fare sesso, titolo dei giornali, il degrado di Gallipoli. Però possibile che all'alba su una spiaggia... Il degrado è quello che li ha ripresi, quello è il vero degrado. Perfetto, sono d'accordo. Perché all'alba su una spiaggia a Gallipoli, se in una spiaggia dove non c'è nessuno intorno, non puoi fare sesso, allora quando lo devi fare? Si sono sbagliati col fuso orario, che è spuntato il sole un po' prima di quello che si aspettavano. Ma dai, ma queste cose si facevano anche, insomma, le facevamo anche noi, no? Mi ricordo sulle spiagge di Cesenatico, tante volte sono stato svegliato dal bagnino. Momento a Marcord di Jerry Calà. In atteggiamenti compromettenti, insomma, quantomeno. Compromettenti, voglio dire, ma che ben venga, ragazzi. No, poi su una spiaggia non è che sei in piazza. Voglio dire, non sono atti osceni, sì, all'alba sì, almeno. No? No, bisogna dire che altre foto, sempre di Gallipoli, mostrano altre cose in quella città, evidentemente presa di miro, io non sono mai stato. Ci sono cose di degrado, sacchetti e l'immondizia, una tenda piantata in un campo, in un parco per bambini, ma sono altre cose. Questa cosa qua mi sembra, insomma, la più, non dico perdonabile, ma viva Dio che qualcuno all'alba ancora voglia, no? Ancora voglia di fare l'amore, anche perché lo dico sempre nei miei spettacoli, tu sai che io sono in giro sempre con il mio show, sì. Tra l'altro sono seguito da ragazzi giovanissimi che riscoprono attraverso le reti digitali, tutto Sky, che fanno ogni estate rifanno tutti i miei film, quindi io godo ogni estate di una rinnovata popolarità, faccio degli strapieni ovunque e glielo chiedo sempre agli sbarbati, ma scusate voi, aperitivo, apericena, cena, e poi? Dopo cena, discoteca, prediscoteca, focaccina la mattina, ma quando cazzo ci l'ha? E su questo, buona estate, ciao! Ciao! 800 24 0024, andiamo con i vostri interventi, ascoltatori, a cominciare da Alessandro che ci chiama dalla provincia di Palermo. Buonasera. Dalla provincia di Palermo, però va bene lo stesso. Senta, io volevo intervenire in merito alla situazione di Gallipoli. Sono proprio da una vacanza di 10 giorni lì e mi sono subito imbattuto nel paesaggio, a livello paesaggistico, come viene tenuta questa terra bellissima, stupenda. Però c'è un degrado già di base che tutti giustificano con un fatto che sia natura, piena natura, quindi lasciato così. Però non possono lamentarsi se poi dei personaggi si trovano in questo posto, vedono il degrado che c'è già, la noncuranza anche dell'aspetto paesaggistico del posto e poi magari si permettono di sporcare, si permettono di buttare immondizia dappertutto, quando non c'è poi da parte della popolazione direttamente una cura del paesaggio. Cioè lei ha trovato la situazione, ma in che senso degrado? Cosa ha visto? Ci racconti? Guardi, io sono marchigiano, quindi vedo il rapporto, anche la differenza anche a livello paesaggistico, di come curiamo le strade, di come teniamo anche i bordi delle strade e di come ci comportiamo anche a livello di nettezza urbana, eccetera. Quando una persona si trova in un ambiente, chiaramente è stimolato anche dall'ambiente stesso, poi essere pulito o essere sporco o non rispettare l'ambiente, non rispettare la cittadinanza locale. E quindi prima di fare delle accuse direttamente al turismo, come viene bisognerebbe fare un'accusa a come viene gestito il turismo, come viene gestito il territorio e poi dopo magari trovare veramente le cause che poi hanno Va bene. C'è un degrado del genere. Va bene, grazie, grazie anche a lei. Buona serata. Andiamo con Alessandro, sempre, che ci chiama da Bologna. Buonasera. Pronto, buonasera. Senta, io sono veramente molto breve, non vorrei essere tacciato di essere una persona intollerante, però per quanto riguarda, concerne il discorso di prima, riguarda l'accattonaggio, sì, io ho notato che la stragrande maggioranza di queste persone che lo praticano sono tutte zingare, non ex comunitari immigrati, ma sono zingari. Vabbè sì, gli zingari sicuramente sono tra quelli che fanno di più l'elemosina, questo è indubbio. Fa parte anche un po', nonostante la discussione l'altra sera con il rappresentante Rom Zuinisi, non so se ci starà ancora sentendo, però che lui non voleva ammetterlo, ma è così. Infatti questo è un stato di fatto, bisogna constatarlo. Sì. E poi è tutto qua quello che volevo dire, è tutto. Va bene, grazie. Andiamo con Lores, che ci chiama da Vicenza. Buonasera. Buonasera, signor Maurizi. Posso farle una domanda? Prego. Dove vive lei? A Milano. Bene, in Italia. Non sa che c'è il racket dell'accattonaggio? No, me lo dica lei. No, se lei va in un asilo qualsiasi, dagli 0 ai 3 anni, sì, tutti i bambini che possono esprimersi gli diranno c'è il racket dell'accattonaggio. I bambini me lo diranno, Lores? Bambini deformati dalla nascita, che questi bigliacchi si portano appresso per fare pietà. Gente con handicap dell'est che vengono portati qui per metterli in strada dalla mattina alla sera per fare accattonaggio. Quindi, Lores? E quindi venga giù dal pero. Allora, questa mentalità... Ma quale pero, Lores? Scusi, io ho fatto una domanda al sindaco, gli ho chiesto se a Monza c'era il racket oppure no. Non sto su nessun pero, guardi, si sbaglia. No, si era impiccato lei. Poi, quella signorina speak English invasata che va con i gommoni, sì, intanto non credo che possa prendere nessuna autorizzazione di prendere questa gente in mare, perché a parte Lores, io me lo... però lasci perdere questo, guardi, perché se mi attacca la signora che abbiamo intervistato, che ha messo 300.000 euro dei suoi per andare con una nave, sono problemi suoi se vuole andare a salvare qualche immigrata, capito? A lei la non toglie opinione. Nulla. Posso esprimere una mia opinione? Sì, ho capito, però è veramente... No, però un cavolo! Se lei non è così sinistroso come lo penso, lei mi deve lasciar parlare. Ma lei parli prima di tutto senza urlare, Lores, perché non è il caso. Devo sovrappormi alla dica sua quello voce. Che deve dire, forza. Ok, quella invasata speak English. Ma perché invasata? Scusi, perché invasata? Ma mi scusi un po', ma quale deficiente? Avrà le sue convinzioni. Deficiente lo dice lei, scusi. Ha le sue convinzioni, bisogna rispettare, Lores, le convinzioni degli altri. Se uno vuole andare in mare a salvare gli immigrati di tasca sua, lei lo deve rispettare. Poi potranno non essere d'accordo. Perché deve dire che è un'invasata? Scusi, allora è un'invasata anche lei. Sì, io la rispetto, però io sto difendendo una persona che poco fa ha parlato, ha capito? Lei può rispettare le mie convinzioni, le mie idee o no? No, se lei non rispetta Regina Catrambroni, io non rispetto lei. Decide lei chi deve rispettare uno. Sì, lo decido io perché sto qua a fare questo di lavoro. Lei è il padrone del vapore, sì, no? Di sinistra, sì, giusto? Sì, sì, esattamente. Perché con le sue idee non può lasciare liberamente parlare la gente, esprimersi liberamente. Lores, mi spiega perché deve dare dell'invasata a quella signora che avrà le ma sue convinzioni? Perché non posso darglielo? Ma no, scusi, ma lei glielo dia, gli dica, dica pure, Lores, dica pure che lei è invasata. Io le sto chiedendo perché, secondo lei, è una persona e che se lei va... mi lascia, se lei mi lascia esprimere, la lascio. No? Siccome che adesso non ha fatto altro che sovrapporsi alla mia voce, allora io non ho potuto dirle perché. Questa o è una figlia di papà, o è una senza lavoro che hanno messo su qualche onlus per prendersi i soldi, lo stipendio, paramedici. Non sono medici, vanno con i paramedici. Ma lei si rende conto che questi stanno portando qua la merda da tutto il mondo? Ebola. Lores, arrivederci, buona serata, arrivederci, basta, questo non lo posso tollerare. Dare della merda alle persone solo perché sono immigrati, solo perché a lei non piacciono, non lo posso tollerare, insomma. Poi gliel'ho fatto anch'io la domanda, ma lei non teme di favorire l'immigrazione? Però bisogna ragionare in altri modi, non così, Lores, non con questa... anche carica di amarezza, ma perché? Ma chi serve? Boh, non lo so. Claudio, da Livorno, ci tiri su lei. Volevo solamente sì. Ho telefonato per sapere una precisazione, perché sì. Il signore mi sembra ha detto che era di Malta. Sì. La signora che ha organizzato l'imbarcazione e tutto. Volevo sapere, una volta presi questi extracomunitari, li porterebbe a Malta? Questa è una bella domanda. Non se, gli andava fatta questa domanda, in effetti, perché chi lo sa dove li porta? Sì. Non so, era solo questo qui, poi per il resto... Guardi, non credo che li porti da molte parti, credo che aspetti l'arrivo di qualche motovedetta, perché non è che tocca a loro fare poi cose di sicurezza o di trasbordi, insomma. Credo che poi aspetteranno l'intervento della Marina, qualcosa del genere, Antonio. Pronto? Sì, sì, della Marina italiana, dico. Penso di sì, è quello che c'è. No, no, perché pensavo, siccome ha detto che era di Malta, pensavo li portasse poi nel porto... Sì, Claudio, mi scusi. E quindi, ma lei cosa... Cioè, la sua preoccupazione qual è? Che li porti in Italia? No, era solamente una precisazione, perché... No, non è una preoccupazione li porti in Italia. Abbiamo presi tutti, li prendiamo tutti volentieri, perché... Era solamente perché organizzare il tutto e poi portarli in un altro paese è come se noi prendessimo queste persone qui e poi le portiamo in altri paesi. Diciamo, abbiamo presi, ora le portiamo in Germania. Guardi, dove li portano non lo so, non so neanche quanti ne prenderanno. Questo poi c'era il giornale radio, è caduta la linea, quindi manca un pezzo di intervista sicuramente. Grazie Claudio, buona serata. Gino da Foggia. Va bene. Allora, io avevo iniziato questo discorso sull'accattonaggio. Sì. Io ho girato l'Africa per circa 30 anni. Dove è stato Gino? Dove è stato? Dunque, io sono stato nello Zaire per 6 anni, sono stato in Zambia, sono stato in Marocco, sono stato in Arabia Saudita. Ma per lavoro? Lei lavorava? Sempre per lavoro. Che lavoro faceva, Gino? Io facevo montaggi impianti come raffinerie, insomma, impianti. Mi occupavo per quanto riguarda macchine rotanti, quella era la mia sessione, insomma, le macchine. Ora, io quando ho lavorato sempre con non con lo spirito mercenario, ma cercare di capire le persone, aiutarle quando era possibile. Ho visto tanto di quella povertà che lei non può immaginare e ho imparato a vedere le cose in maniera un pochino molto più globale. Santo cielo, dico io, ma tutte quelle iniziative filantrope che sono sempre lodevoli, insomma, quando uno si muove per aiutare gli altri è sempre lodevole questa iniziativa, sì. ma però non si risolve niente, non si fa altro che allungare l'agonia, non si risolve niente. Guardi, non si risolve, dipende che cosa. Io credo che l'iniziativa di cui abbiamo parlato non è che mirasse a risolvere qualche problema, semplicemente loro vanno perché credono di poterlo fare a salvare la gente in mezzo al mare, se gli capiterà, ma non risolvono nessun problema, questo è ovvio. Cosa vuole? Salvano delle vite, se questo è un problema, se no nessun problema, Gino. Volevo soltanto dire che ci sono delle istituzioni, per esempio abbiamo il Santo Padre che ha parlato di questo problema, ma c'è l'ONU, santo cielo, ma che cosa sta a fare l'ONU quando ci sono dei governi che non fanno altro che vessare il proprio popolo e obbligare le persone a scappare? Ma è lì che bisogna intervenire. L'Unione Europea, ma che cosa fa? Ma ci sono tante strade per poter intervenire senza aver bisogno di buttare giù bombe, è vero? Ci sono tanti modi per intervenire presso una nazione che ci procura soltanto dei gran problemi perché le persone scappano. Il problema va affrontato alla fonte, per quanto lo devo dire sia con opere filantrope. Vabbè Gino, però adesso non confondiamo, grazie intanto, buona serata, cioè non confondiamo le opere filantrope, credo si riferisse sicuramente alla nave di cui abbiamo parlato che va in giro nel canale di Sicilia a salvare gli immigrati, con la guerra in Iraq, con la Siria, con altre cose dove ovviamente non c'entra assolutamente nulla ed è tutta un'altra storia quella. Legalize it, legalize it. Tell me, tell me, tell me, tell me, legalize it. Illegale salva i conti pubblici e ci aiuta con l'Europa, titolano alcuni giornali, perché l'Europa ha deciso già da tempo di introdurre nel calcolo del PIL l'economia non osservata, dicono così, ma in particolare parliamo dell'economia illegale, cioè contrabbando, prostituzione e traffico di droga. Di che si tratta? Lo chiediamo intanto a Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Lei che di PIL, insomma, se ne intende. Intanto questo PIL, la Cina se ne vuole sbarazzare perché ha detto che non serve più a misurare cose che a loro interessano. Adesso misurano la povertà e il consumo delle foreste, eccetera. L'Europa lo sta modificando, addirittura inserendo dentro queste cose. Ma il PIL serve ancora a qualcosa? Ma purtroppo noi adesso ce l'abbiamo nella Costituzione, perché l'adesione all'Unione Europea si è costretto a mettere nella Costituzione l'obbligo di pareggio di bilancio, entro certi limiti ovviamente, e l'obbligo di diminuire il rapporto tra deficit e PIL in un ventennio tanto all'anno. Certo. Quindi abbiamo fatto una scelta che, come sapete, è molto discussa, ci sono gli europeisti, gli antieuropeisti, eccetera. Chi sta fuori se ne frega, l'Inghilterra non accetta, la Cina ovviamente fa quello che gli pare, e noi purtroppo siamo ormai in un paese che non è più l'Italia, ma è l'Europa, e quindi non possiamo nemmeno dire non va bene, non lo vogliamo. Sì. Perché è questa storia qua del PIL, no? Cioè delle attività illegali, tutto nasce, credo di aver capito, perché non è una cosa semplice, è una cosa anche quasi da economisti, cioè siccome in alcuni paesi del nord Europa queste attività sono legali e contabilizzate, allora aiutano a, diciamo, si sommano alle altre e il PIL ne risente positivamente. Allora, per omogeneizzare i dati, anche noi che non le abbiamo legali queste attività dovremmo però valutarle. Però è un paradosso da un certo punto di vista, no? No, guardi, perché il problema è questo: il PIL è la ricchezza, no? Sì. La ricchezza prodotta da un paese. Se nel nostro paese c'è una ricchezza che attualmente non emerge, ma c'è, che è data da queste attività cosiddette illegali, perché per esempio la prostituzione non è illegale, è lo sfruttamento della prostituzione, certo, questo sì, che è illegale. Quindi è un'attività stranamente non illegale che esente da qualsiasi contabilizzazione. Allora, se c'è questa ricchezza e noi la riusciamo a inserire nel calcolo complessivo, aumentando il PIL abbiamo meno fatica, meno tasse da mettere per poter soddisfare le esigenze dell'Europa, per tenere quelle percentuali e tenere quel rapporto tra deficit e PIL. Però allora, scusi, ci chiarisca anche subito questo aspetto, lei che queste materie, insomma, le conosce abbastanza. Insomma, non molto. Vabbè, però insomma più di noi profani sicuramente. Come viene fatto questo calcolo? Perché oggi, per esempio, l'Istat da qualche parte ha detto attenzione, perché oggi o ieri non faranno prostituzione, droga e contrabbando salire davvero più di tanto il PIL. Cioè, chi è che farà questa stima? Prima la deve fare il governo, che la fa attraverso l'Istat e attraverso gli organismi della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Economia. Questa stima poi viene fatto un elenco, naturalmente, che viene poi mandata all'Europa, che verifica che non sia inventata. Ora, se l'Europa ci dice potete mettere anche il volume di ricchezza prodotto dalla prostituzione, mi attengo a quello per non parlare di altre cose come ovviamente commerci illegali, di droga o quant'altro, perché la gente si sconvolge per questo, ma poi dirò perché non c'è niente da sconvolgere. Ecco, allora se noi possiamo mettere quello, aumenta questo PIL e quindi diminuiscono i nostri doveri di correre a mettere nuove tasse per poter stare ai livelli richiesti dall'Unione Europea. Dicevo, perché è giusto questo e perché sono ipocriti quelli che si oppongono? Perché altrimenti questa ricchezza che non emerge ci punirebbe due volte: una volta perché non emerge e quindi non possiamo tassarla perché è sommersa, e un'altra volta perché non possiamo nemmeno considerarla nei confronti degli altri paesi europei e quindi dell'Unione Europea. Allora noi dobbiamo invece utilizzare questa possibilità per lavorare su due fronti: da una parte inserire, e si fa con valutazioni statistiche, cioè quant'è la ricchezza derivante dalla prostituzione e da contrabbando e da quant'altro eccetera, dopodiché però questo deve servire per farla emergere, nel senso che deve esserci una lotta su due fronti: da una parte metterla dentro e dall'altra indurre lo Stato a trovare sistemi per far diminuire l'attività illegale, sì, o comunque quella che è illegale non è, ripeto, la prostituzione può essere non gradita, non approvata, per carità, è una cosa terribile, il corpo della donna soprattutto, anche se la prostituzione non è solo femminile, è una cosa sbagliata e quant'altro, ma non è vietata dalla legge. Allora, ecco, però, perché non devono, sì, pagare le tasse le prostitute? No, ma a questo punto, su cui diciamo se ne parla da anni forse in Italia, adesso che c'è questa diciamo opportunità o situazione per cui comunque almeno nel conteggio dei conti economici lo andremo a inserire, sarebbe arrivato il momento, almeno questo è quello che penso io, con lei credo che l'ha già detto, sì, è d'accordo, di fare questa legalizzazione, di andare nella trasparenza per quanto riguarda la prostituzione e forse anche per quanto riguarda le droghe, per quanto mi riguarda, droghe leggere. Perché secondo lei bisognerebbe farlo davvero questa cosa qua? Perché avrebbe anche, l'ha già detto, un tornaconto economico, cioè di prelievo fiscale, no, su tutto questo. È fortissimo, cioè oltre a entrare nel PIL ci sarebbe un'entrata fiscale enorme, diciamo dell'1-2% di quelle che sono entrate fiscali complessive. Poi dico, per il gioco d'azzardo che è vietato, scusate, fatemi fare sta battuta, il codice penale vieta il gioco d'azzardo. Però ci sono una serie di deroghe che lo consentono. Certo. Per cui il gioco d'azzardo gestito dallo Stato biscazziere non è illegale, e lì si fanno pagare le tasse ai gestori dei servizi, si fanno pagare le tasse quando si mette la monetina nella casa, cosa giustissima e sacrosanta, perché andrebbe diminuito drasticamente il gioco d'azzardo, perché porta una spesa sanitaria enorme di ludopatia, di dipendenza dal gioco. Ecco, allora ci si invece si ammanta di moralismo quando dal gioco d'azzardo si passa alla prostituzione. Questo è ridicolo. Chiaramente, se io riesco a far pagare le tasse, a far emergere questa ricchezza, ad avere quindi entrate fiscali maggiori, ad avere quindi un PIL maggiore che mi fa faticare di meno e mi fa avere meno tasse dal governo, questo secondo me è assolutamente positivo. Vedremo, perché step 1 lo facciamo, credo che lo faremo a settembre, credo che non si scappi, no, da quello, cioè il fatto che entrino nella contabilità economica, questo avverrà. Questo dovrebbe avvenire sicuramente, ripeto, si tratta tutto di vincere le ipocrisie. Noi abbiamo visto quando è uscita questa notizia, sì, che poi è stata approvata dall'Europa, non è che ce la siamo inventata, quindi sono disposizioni europee che autorizzano eccetera. Ci sono stati dei soggetti, anche associazioni di consumatori, devo dire, nostre concorrenti, tra virgolette, che si sono scandalizzati. E allora io dico, ripeto, come dico a tutti gli radioascoltatori della vostra bella trasmissione, ma scusate, ma avete visto che in ogni bar dove entrate c'è un'attività illegale? È un'attività illegale, qualsiasi bar entri c'è una macchinetta, una slot machine o un gratta e vinci, che è un'attività illegale per il codice penale. Allora, quello l'abbiamo messo dentro, e ci sono alcuni paesi d'Europa dove invece non è sotto il controllo del governo, perché anche lì c'è l'ipocrisia pure su quello, è in mano alla criminalità e quindi il gioco d'azzardo non è controllato dai governi, ma adesso c'è una direttiva europea che impone a tutti i paesi dell'Unione Europea di mettere sotto controllo dello Stato il gioco d'azzardo. Ma lo stesso dovrebbe essere appunto per la prostituzione, tanto per dirne uno, per le droghe leggere, per dirne un altro. Il tutto regolamentato, esatto. Diciamolo, perché la gente non pensi che si liberalizza tutto, si può far tutto in tutti i luoghi, non è così. Anche dove il consumo di droghe leggere, ad esempio, è consentito in certi luoghi, in certe condizioni, anche di sicurezza, anche igienica, diciamola tutta, che sono cose da non sottovalutare in questo campo. Grazie Carlo Rienzi, presidente del CODACONSUM, buona serata. Buon lavoro. A presto, buona estate. Vabbè, insomma, questa è la situazione per quanto riguarda il PIL. Cioè, avete capito, una buona notizia per quanto riguarda i conti pubblici, perché aumentando il PIL vabbè, insomma, avete capito, è difficile da spiegare, lasciamo perdere. Abbiamo la pausa o abbiamo gli ascoltatori? Pausa. Allora facciamo un ascoltatore, va. Andiamo con chi andiamo? Giorgio da Milano. Sì. Giorgio, buonasera. Buonasera. Senta, mi permetto un attimino una piccola digressione su quello che sta sul ragionamento che volevo fare, ed era a proposito di quello che avete detto del PIL. Sì. A me sembra veramente, ho sentito Giovannini che ne parlava ieri in giornata e poi ancora ieri sera e questa mattina, la variazione del PIL è talmente piccola che sembra quasi una presa in giro. Beh sì, discorso. È poca cosa, l'ho detto quello poco che fa, veramente sì. Mi sarei molto contento se riuscissimo almeno la prostituzione, che è la più cara, tassarla. Allora avremmo un grosso vantaggio per l'Italia. Enrico Mentana è tornato dalle vacanze, ti gira 7. Per tutti gli acquisti della pubblica amministrazione si comincia a ingranare, ma c'è qualcos'altro che riguarda le famiglie con l'approssimarsi dell'apertura delle scuole e riguarda soprattutto i docenti, perché infatti il ministro Giannini annuncia la fine del regime delle supplenze, in che modo sarà tutto da vedere. Ma in realtà tutte queste sono notizie che riguardano un po' burocraticamente ma anche sostanzialmente la vita del governo e quella del paese. C'è una sfida che si sta facendo sempre più dura, quella dell'economia. La Germania dà nuovi segnali negativi dei suoi indici economici e le borse. Vabbè, Mentana è tornato alle vacanze, non è in formissima, cioè non c'è ancora il piglio, il ritmo, quello classico. Riprendiamo con Giorgio. Giorgio? Sì, ci sono. Eccolo. Senta, ecco, data la premessa. Sì. Io volevo tornare sul discorso della migrazione, chiamiamola così, di Mare Nostrum, eccetera, e soprattutto di quella signora che è intervenuta in trasmissione di Malta, sì, dove ha parlato, lei poi ha detto, di 300.000 euro investiti. Sì, sì. Allora, a prescindere da questo, verrebbe facile giocare, ma 300.000 euro eccetera, a parte il fatto che io dico che se una persona lo fa per altruismo non fa delle conferenze stampa, lo fa direttamente, ma questa è una premessa e se andasse avanti si penserebbe che sono il solito italiano che pensa male. Sì, esatto. Però si penserebbe. Concetto, io almeno penserei questo, sì. Vale. Esatto, ma non lo voglio dire, me lo tengo, non è un problema. Il mio concetto di fondo però è un altro. Sì. Allora, io credo che il problema di fondo non sia salvare le vite umane, perché questo possiamo dire, ci mettiamo 30 navi in più dell'Italia e riusciamo a prenderli tutti. Il problema è di fondo che poi questa gente, una volta che l'abbiamo recuperata, sperando di recuperarli tutti, da qualche parte li dobbiamo portare. Allora, visto che a Malta non possiamo portarli, perché a Malta si rifiutano di accettare questa gente, è chiaro che questi migranti vengono comunque sempre in Italia. E credo che il concetto di fondo, sì, forse qualcuno sta sbagliando a capirlo, non è il salvare la gente, perché salvare la gente possiamo farlo. Però scusi, farlo Giorgio, non è così semplice, nel senso che salvare la gente intanto va fatto, questo lo dicono tutti, non per fortuna, cioè solo pochi pazzi direbbero non bisogna salvare la gente, e quindi questo, io infatti ho detto sospendiamo per un attimo il giudizio su tutto quello che avviene intorno al tema degli immigrati e focalizziamo l'attenzione su questa storia, su queste persone che hanno deciso di fare questa cosa qua. Non credo con secondi fini, con terzi fini, non lo so, abbiamo raccontato questa storia, punto. Poi il resto, esiste sempre il problema degli immigrati, come gestirlo, su questo possiamo aprire un altro dibattito, però non mi dica salviamoli, è facile, perché continuano a morire, quindi non è così facile, evidentemente. Ho capito, però molto probabilmente, purtroppo, io non sono leghista, sì, per l'amor di Dio, ma penso che non forse è un male esserlo comunque. No, non è un male esserlo, non è anche un male non esserlo, certo, per l'amor di Dio. Però io dico che forse, come era stato impostato precedentemente, cercare di aiutarli sul posto e non farli partire è la maniera migliore per salvare queste persone. perché poi arrivano qui e scopriamo che vanno in Sardegna, gli mettono nei grossi... Questo io sono d'accordo con lei, però questo secondo me c'entra poco col discorso della nave. La nave è una cosa che... ma lei sarà d'accordo con me, cioè è una cosa che non c'entra nulla col tema aiutiamoli qui, no, aiutiamoli io, lì. No, questi non sono né un governo, non sono nessuno, sono dei privati che fanno questa cosa e non risolveranno i grandi problemi dell'immigrazione. Forse salveranno qualche vita, forse faranno sbarcare qualche immigrato in più in Italia, punto, non succederà nient'altro. Poi possiamo parlare del fatto che in Italia ci sono 1000 rifugiati e in Francia ce ne sono 10.000, questo lo diciamo sempre, ricordiamoci anche questo, che transitano e vanno, però questo poi è un altro discorso. Giorgio voleva aggiungere qualcosa, certo. Poi ci salutiamo, sì. No, il mio era solo questo, volevo solo dire che la signora ha sentito parlare di salvagenti e di tutte le altre cose, di questi comuni super veloci, via dicendo, ma poi nella realtà tiriamo fuori due persone in più dall'acqua, ed è giustamente, perché io sono un ufficiale di marina e l'ufficiale di marina posso garantirle che nella mia testa è la prima cosa il salvataggio della gente in mare, del resto non me ne interessa nulla, però il concetto dice che poi dobbiamo farlo. No, ma il resto dei problemi sono tutti lì, la nave non cambia assolutamente nulla da questo punto di vista. Grazie Giorgio, buona serata. Abbiamo i titoli del TG1, sì, sentiamoli, vai. Francia, crisi di governo per divergenze su politiche economiche, in Germania cala ancora la fiducia delle imprese. Economia e riforme, vertice Renzi-Padoan a Palazzo Chigi, statali dal 1 settembre dimezzati i permessi e distacchi sindacali. Terrorismo e immigrazione, il ministro Pinotti al TG1, presto le armi ai curdi, Mare Nostrum diventi missione internazionale. Ancora un naufragio nel canale di Sicilia, 6 vittime, il terzo in 2 giorni, l'osservatore romano, stragi in mare come una guerra. Quell'uomo mi spaventa quando maneggia i coltelli, in un messaggio l'allarme della Colf decapitata, indagine sull'uccisione del killer. La scuola del futuro, niente precaria, gli insegnanti stipendio legato al merito, nuovi programmi, anticipa il ministro Giannini. Claudio Baglioni festeggia 50 anni di carriera, il primo concerto nel quartiere Centocelle a Roma nel 64, il cantautore aveva 13 anni, al TG1 racconta il suo esordio. E allora andiamo di nuovo con gli ascoltatori e con Liliana che ci chiama da Torino. Buonasera. Buonasera Liliana. Parlo con il signor Maurizio. Sì. Alessio Maurizi, Liliana. Alessio Maurizi. Comunque non importa. Scusa, sì. Parla anche con tutti gli ascoltatori che la stanno sentendo. Sì. Vada. Lo so. Volevo dire che l'orsa avendo 2 cuccioli piccini, ovviamente pensava che potesse far del male ai cuccioli, e poiché anche ha un odorato molto fine l'orso, e poi è anche vegetariano, cioè che quando l'orso è vegetariano. Sì, è vegetariano soprattutto. Soprattutto, però non disdegna un morsino alla coscia del cacciatore di funghi. No, anche perché il tartufo gli piace pure lui. Vabbè Liliana, lei sta con Danizza, abbiamo capito, sì. Sì, il problema è solo questo, che ucciderla perché però guardi, non la vogliono uccidere, la vogliono solo catturare. Catturare è diverso, perché sì, se no credo che se volevano ucciderla l'avrebbero già uccisa dalla distanza, invece vogliono catturarla, che è molto più difficile. Lei parlava che è traccata, che la cercano attivamente. Comunque, a parte che un orso sarebbe bene in libertà, comunque, insieme... Ma è in libertà. Guardi... Liliana è in libertà, lei e tutti gli altri orsi del Trentino, soltanto che dicono che diciamo non ha più un comportamento forse in linea con gli altri orsi, non si sa, ma dopo aver fatto questa aggressione c'è preoccupazione che possa rifarla, allora la vogliono catturare, forse anche per eventualmente vedere se è in salute. Qualcuno dice che il Trentino ha fatto una brutta figura a livello internazionale, non credo però, perché per ora all'orsa non è accaduto assolutamente nulla, insomma. Quindi andiamo con Abi che ci chiama da Reggio Calabria. Sì, buonasera Abi. Allora, io volevo intervenire a proposito del signore che voleva legalizzare la prostituzione. che secondo me è una vergogna. È una cosa sbagliatissima mercificare il corpo di una donna, sì, e cercare di sistemare i conti italiani mettendo delle tasse su queste cose. Cioè, va bene, Abby, avviene già la mercificazione, come dice lei, del corpo della donna, avviene già. Il problema è se in qualche modo prenderne atto e farne anche una contabilità economica, oppure girare la testa dall'altra parte e far finta di nulla. Credo No, ma io non dico che bisogna girare la testa dall'altra parte, ma non bisogna neanche giocarci su questo. Bisogna cercare di aiutare queste signore, perché secondo me queste signore qua non è che lo fanno volentieri o lo fanno con piacere, secondo me lo fanno perché hanno dei problemi familiari, perché sono costrette, perché sono delle donne che sono state abbandonate dai propri mariti, non hanno un altro sbocco. Io faccio l'autista, solitamente per non essere derubata del carico che trasporto mi parcheggio nei posti dove ci sono queste signore qua, perché essendoci loro c'è del movimento e ho l'occasione anche di parlare con loro. E mi spiegano tante volte che non è una cosa voluta, ma è una cosa, cioè, sono obbligate, o perché qualcuno li obbliga, o per bisogno, e di conseguenza io dico e penso che bisognerebbe aiutarle, invece che... Va bene, abbiamo capito, benissimo, è giusto anche dire, ricordare questo, anche se il tema non era proprio questo, ma siamo nelle vicinanze. Grazie, adesso è il momento di Rossano Ercolini. Una promessa che ci eravamo fatti settimana scorsa. Ciao, buonasera Alessano. Buonasera. Ciao. Avevamo detto, ci sono gli ascoltatori che hanno reagito alle nostre stimolazioni, diciamo così, alle nostre chiacchierate, alle tue soprattutto chiacchierate di quest'estate sul tema dei rifiuti. Abbiamo cercato di guardare dentro il cassonetto dei rifiuti per capire che è una miniera d'oro preziosa, perché ci sono tante cose da recuperare. E insomma, piano piano tu ci hai raccontato anche come e perché lo stiamo facendo, però le domande degli ascoltatori che un po' malfidenti, un po' dubbiosi, un po' abituati sempre a vedere il peggio, sai Rossano, cioè anche guardando lo spettacolo della politica che spesso non è soddisfacente, spesso non si fidano anche delle ricette che gli proponiamo, e c'erano vari temi. Uno per esempio era sul discorso dell'evasione fiscale relativamente al baratto, cioè se tu recuperi e baratti gli oggetti anziché buttarli e quindi gli ridai nuova vita, però staresti commettendo un reato fiscale. Beh, intanto che ci siano le domande è molto è positivo, buono, perché vuol dire che c'è comunque un interesse, giustamente le persone fanno le domande che hanno in animo di fare, quindi io mi sento di ringraziare tutti coloro che vogliono approfondire, diciamo, gli argomenti. Sulla questione specifica, beh, quando si parla di riuso, si parla di un universo composito, c'è dal lobbista che frequenta i mercatini dell'usato, che di solito non vedono applicazioni, diciamo, dell'IVA, di preoccupazioni di tipo fiscale, perché semplicemente i comuni, per esempio a Capannori si chiama il mercatino delle soffitte in piazza, dove vengono operatori che non lo fanno di professione, che si scambiano gli oggetti, in alcuni casi vengono venduti, ma il giro di affari è estremamente modesto. Poi ci sono coloro che lavorano, sono il cosiddetto ambulantato, in molti casi lavorano borderline, in molti casi anche illegalmente, perché vengono da fasce sociali molto problematiche, diciamo così, che a rischio di inclusione. C'è poi il vero e proprio business, che si articola attraverso il cosiddetto la compravendita, quello del vecchio rigattiere che ti viene a prendere, certo, la cantina, in cambio te gli dai i mobili e lui se li vende, lì viene applicata l'IVA come per qualsiasi attività commerciale. Quindi su questo, che è la parte, diciamo, più come dire, più professionale, no, del riuso, sì, del baratto, lì tu dici è tutto regolare. Certamente c'è quello che fa un'attività imprenditoriale da evasore, questo, come in tutti i settori, come ovunque, certamente in qualsiasi settore, purtroppo in Italia statisticamente, ma in questo caso chiaramente uno incorre nelle normative. Esiste un forte sviluppo invece il cosiddetto franchising, Mercatopoli, Baby Bazaar, che sono grandi catene, è un brand che offre il proprio brand in franchise. Helsinki hanno più di 100 negozi, sì, circa 150 negozi diffusi in tutta Italia, dove il meccanismo non è la compravendita, ma è in conto vendita. Per esempio Alessio mette in vendita una vecchia bicicletta che usava quando aveva la passione per la mountain bike, concorda con colui che la espone all'interno di un capannone industriale più o meno elegante a seconda, diciamo così, della capacità imprenditoriale del gestore, e viene concordato un prezzo. Sostanzialmente il grosso, di solito più del 60%, va a colui che ti mette in vendita utilizzando il tuo spazio, e se la bicicletta di Alessio viene venduta c'è una provvigione del 35%. Ebbene, la normativa prevede che su quel 35% che va al soggetto che gestisce l'esposizione, quindi riceverà la provvigione, si applica l'IVA. Quindi torniamo alle solite, ci siamo in pieno regime di IVA, insomma, anche qua. È chiaro, poi c'è il mercatino dove c'è il ROM, dove c'è il sinto, dove c'è magari la persona che ha problemi a sbarcare il lunario, per esempio Porta Portese a Roma, che è un esempio tipico, perché c'è un gran dibattito all'interno, diciamo, e c'è anche una richiesta di ONU, Organizzazione Nazionale dell'Usato, per definire in modo anche legale la nozione di operatore dell'usato. Quindi le associazioni, che bontà loro, si danno da fare, stanno anche cercando di ci si sta lavorando, perché c'è una parte trasparente, una parte legale, una parte forse meno, più marginale, però anche su quello si sta cercando di dare, insomma, di dare una forma. Certamente, perché sta crescendo questa cosa. In quel caso conta l'inclusione sociale, perché molti mercatini sono per promuovere la solidarietà, molte famiglie magari vanno ad acquistare o ad acquisire la cucina o la camera, che sono, sì, diciamo così, necessarie per la sopravvivenza dignitosa, vanno magari da associazioni caritatevoli che hanno organizzato questi mercatini. Però se lì se non paghi nulla, io dico, ma che IVA ci deve essere, ragazzi? Se parliamo di cose che vanno in discarica, Alessio, invece tieni conto che, sì, questi che per esempio sviluppano il conto vendita, sì, pagano quanto non solo pagano l'IVA in quelle modalità che ti accennavo, sì, ma addirittura pagano quanto un supermercato, mentre il supermercato produce scarti, rifiuti, anche se per carità di Dio svolge un servizio. Certo. Invece il mercatino ha anche il ruolo, diciamo, al contrario, colui di assorbire i rifiuti, paga la tassa smaltimento rifiuti nel momento in cui li evita. Questa è una cosa su cui riflettere, un paradosso. Fermiamoci un secondo, che abbiamo il traffico, e poi però anticipiamo, andiamo un po' di corsa, perché naturalmente, come sempre, anche l'altra questione che avevamo detto, che era quella dei Repair Caffè, il caffè dove si ripara, si recupera, anche lì col lavoro, se bisogna, diciamo, adottare normative tipo la 626, cose così, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Si può fare, si può fare, si può chiedere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare l'attualità anche d'estate. Allora, di nuovo con Rossano Ercolini, per quest'altro tema qua, cioè che è anche più sfuggente secondo me, il tema, tu avevi citato il Repair Caffè, dicendo che in Italia, insomma, non cominciano ad essercene, ma è un'esperienza che viene soprattutto dall'estero, e la domanda secca di un ascoltatore è stato: sì, ma la legge 626 sulla sicurezza del lavoro? Io sono rimasto così, non sapevo cosa rispondere. Anche perché se uno volesse aprirlo, attivarlo, promuoverlo, è giusto scandagliare tutti i dettagli, perché poi, diciamo, c'è quel detto che dice il diavolo sta nel dettaglio. Intanto, se uno vuole aprire un Repair Caffè, deve diciamo porsi all'interno di un'ottica di franchising, lo metto tra virgolette questa terminologia, ma per aprire un locale, sì, che segua il progetto del Repair Caffè deve conformarsi ed avere l'autorizzazione, quindi tutto è codificato e si sta parlando di un'attività pienamente volontaria, e chiaramente anche qui ci fa ritornare un pochino anche indietro quando parlavamo di prima. Se io ho un capannone superiore ai 400 metri quadrati, io devo avere il piano antincendio. se io ho più piccolo non occorre che abbia il piano antincendio. Quindi se io ho una questione anche di dimensioni, certo. Se io ho una sega per riparare i mobili, evidentemente ho bisogno di utilizzare questa macchina secondo i criteri, diciamo così, della sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi, cioè, anche qui attenzione, non stiamo parlando, cioè, esiste una normativa, non siamo nel paese delle banane, siamo in un paese europeo dove tutto, anche il co-working, il cosiddetto co-working, per cui magari in quei luoghi dove vengono messe a disposizione alcune strumentazioni, queste strumentazioni, se sono elettriche, devono rispettare la normativa, se hanno altre caratteristiche devono rispettare appunto una caratteristica anche di chi le maneggia che sia adeguata, per cui se uno non ha mai usato la sega a nastro evidentemente non è permesso che un cittadino comune venga a farsi molto probabilmente del male. Quindi ci sono degli operatori che sono responsabili del mezzo, della macchina. Ovviamente quando uno usa il cacciavite per riparare la bicicletta oppure per montare i dadi o le viti, evidentemente sono sistemi di lavorazione che riducono praticamente a zero il rischio, ma certamente bisogna valutare caso per caso quando è in gioco il piano antincendio o quando no. Mi sembra tutto abbastanza chiaro e di buon senso, abbiamo provato a rispondere, fra l'altro ce l'abbiamo un ascoltatore che vuole intervenire su questo. Rossano, se hai un minuto resta, così magari chiusiamo insieme. Alberto da Cagliari, buonasera. Buonasera dottor Maurizi, buonasera signor Rossano. Io buonasera. Mi chiamo Alberto Cicotto, gestisco da 8 anni un mercatino dell'usato a Cagliari, seguo sempre Radio 24 e anche sul tema dell'usato così. Infatti ero per alcuni versi inizialmente, questo quando avete trattato il discorso dell'usato un paio di giorni fa, in disaccordo con lei Rossano, e invece oggi completamente d'accordo col tema della fiscalità trattato oggi, perché dovete sapere che noi a Cagliari il mercatino usato fa del bene all'ambiente, insomma bla bla bla, le cose che sappiamo tutti. Ebbene, io sono in causa col comune perché ci ha considerato come negozio e ci ha imposto un'aliquota di ritiro della TARSU di 8 euro quasi al metro quadro. Quindi vale a spiegare che noi non compriamo niente, che aiutiamo l'ambiente, insomma le cose. Cioè le fa pagare la tassa sui rifiuti più alta come un negozio. È esattamente quello che diceva prima Rossano Ercolini. Infatti io concordo, infatti stasera proprio ha detto delle notizie esattissime che a Cagliari conferma. Però Alberto, lei che sta in questo settore, diciamo, l'ha visto anche crescere in questi anni nonostante le difficoltà, quali sono secondo lei le prospettive? No, la situazione dell'usato, a mio parere, anche perché sono in collegamento con un gruppo su Facebook che sono circa 300 operatori in tutta Italia, è a macchia di leopardo. Ci sono delle realtà che vanno veramente bene, hanno fatturato ottimo, a gonfie vele. E la stragrande maggioranza che vanno proprio, direi, a pari è una buona fetta che languono, hanno dei grossi problemi. Quindi non è proprio dire che va tutto bene, secondo me è errato, come anche dire che va tutto male, ecco. Quindi la verità, come si dice, sta nel mezzo, ecco. Quindi... va bene Alberto, comunque grazie per aver voluto, diciamo, puntualizzare alcuni aspetti. Rossano Ercolini, hai sentito, stasera ti sei riappacificato. Sto scherzando. Giustamente stiamo parlando di questioni nuove che sta cambiando, che nel momento in cui un operatore vuole scendere, diciamo, dai principi generali ma vuole attuarli, evidentemente poi ha a che fare con quelli che io chiamo i passaggi stretti, quindi la burocrazia, gli investimenti. Certamente la questione è complessa, però si può fare. Io insisto sull'importanza di avere un progetto, poi naturalmente ci rimbocchiamo le maniche per attuarlo. Grazie mille Rossano Ercolini, ci risentiamo tra qualche giorno. Ciao. Andiamo con Stefano da Venezia, buonasera. Buonasera. Volevo solo premettere che io comunque non uso droghe e non frequento le prostitute, però volevo un attimo fare sollevare una questione. Ma non è che legalizzando cambia nulla, perché non è, per esempio, non è che legalizzando l'idraulico le cose funzionano, tutti cercheranno ugualmente di fuggire da questa tassa, perché magari le prostitute invece che 50 metteranno 70 euro per pagare le tasse. O un grammo, che ne so, di marijuana, invece di costare 10 euro costerà 15 perché c'è le tasse. È possibile questo. Diciamo che lei, se non è un consumatore, non dovrebbe interessare nulla, però ha voluto porre la questione. Chi lo sa, Stefano? Non lo so, può darsi. Magari invece, siccome sarà tutto in un circuito economico legale, avrà dei costi minori la cannabis, perché anche questo è possibile. Chi lo sa? No, io a questo non so rispondere. La mettiamo nell'etere la sua domanda. E grazie. Andiamo con Gianfranco, che chiama da Como. Gianfranco? Eccolo qua. Prego. Abbassi la radio, spenga, tolga viva voce, ci ascolti al telefono e poi basta. Sì, sono al telefono. Sì. Perfetto. Sì. Volevo intervenire per correggere un'affermazione che ha fatto Rienzi, quello con la I, non quello senza I. Quello senza I probabilmente non l'avrebbe fatta questa affermazione, dicendo che con la contabilizzazione delle attività illegali noi ne traiamo un vantaggio. Non è assolutamente così. Lei parla come perché... Salvini, ha la stessa voce di Salvini, gliel'hanno mai detto? Assomiglia no, a Salvini. C'è qualcosa vorrà, di Salvini, va bene. Vorrà dire che sentiremo Radio 24 lo magari così vediamo magari di fare la voce di Salvini e... Di fare l'imitatore, di fare l'imitatore. Di imbastire qualcosa. Bravo, insomma, visto che va di moda, dice lei. No, ma scusi, non volevo metterla in imbarazzo, Gianfranco. C'è qualcosa che ricorda la voce di Matteo Salvini. Quindi stava dicendo... No, Gianfranco e telefono da Como. Quindi il problema è che l'Unione Europea ha previsto dei correttivi in modo tale che, siccome ciò che conta è il rapporto fra deficit e PIL, quindi è prodotto interno lordo, il prodotto interno lordo verrà rettificato in modo tale che questo rapporto non cambi, quindi non si trae nessun vantaggio. Probabilmente chi interviene dovrebbe magari documentarsi un po' di più, quindi mandiamo questa informazione a Rienzi. Va bene, anche al sottoscritto, perché la prendo anch'io questa critica, io non sapevo quello che lei dice, non so se... Il vantaggio ci sarebbe unicamente se da queste attività illegali ricava una tassa, allora ovviamente il deficit diminuisce perché abbiamo maggiori entrate. Scusi, adesso io non voglio fare il pedante perché poi non è la mia materia, però se la stima del PIL aumenta, il rapporto deficit-PIL cambia, ha capito? No, ci sono dei correttivi previsti unicamente proprio per questo, proprio per evitare che una nazione... Perché tutti hanno parlato di questo, allora a parte lei, tutti hanno detto, hanno capito il contrario? Non è vero, non è vero, non è vero. Se lei legge le riviste specializzate sta scritto esattamente quello che sto dicendo io. Va bene, è vero che oggi, grazie Gianfranco, comunque è vero che oggi l'Istat chiarisce, non aspettatevi i benefici da questa cosa qua. In un modo o nell'altro l'Istat, diciamo, le dà ragione. Poi non so se per il motivo che diceva lei o per qualcos'altro, perché magari la correzione è infinitesimale, però comunque... Damiano da Venezia, a chiudere, buona serata. Buonasera. Volevo ricollegarmi all'argomento immigrazione e sbarchi. Nello specifico so che può essere un'altra soluzione di quelle personali, però ho sempre pensato, a parte l'amarezza nel vedere il nostro paese sempre purtroppo diciamo costretto ad obbedire a regole internazionali e non riuscire più a essere sovrano del proprio territorio, i respingimenti, per quanto brutti possano essere, per quanto possa dispiacere perché sono persone disperate che stanno male, io penso che i respingimenti in realtà sarebbero l'unica soluzione davvero che va ad eliminare il cuore del problema. Il problema è che i respingimenti non sono una soluzione, perché come si fa a respingerli? Ci ha provato l'Italia in passato, ma non è oggettivamente una cosa semplice andare in mezzo al mare a respingerli. Allora bisogna farli arrivare e poi dopo respingerli di nuovo, ma questo non è riuscito a farlo nessuno. Io non so perché. La cosa diciamo che dovrebbe ammesso essere combattuta che sia alla radice, giusto, sì. È proprio il tentativo di queste povere persone che investono tutto il denaro magari della loro vita in un viaggio della speranza nel quale poi loro perdono la vita. Questo se noi combattessimo sì. queste persone sapessero che purtroppo in Italia non si riesce più ad arrivare, loro si fermerebbero, loro non investirebbero tutto quel denaro per tentare. Damiano, dobbiamo fermarci. Grazie comunque anche a lei per aver chiamato questa sera. È tutto, ci sentiamo domani alle 18. Un saluto da me, Alessio Maurizi, ma anche da Andrea Piana, Camilla Tomadini, Lorenzo Nespoli e Riccardo Poli, che è tornato dalle vacanze, la super redazione Si può fare, Pietro Lacorte in regia. Ci sentiamo domani, ciao a tutti, buona serata, ciao.